Charlotte Bronte lasciò il corpo nel 1855 a soli 39 anni, dopo aver vissuto una vita davvero dura, ma avendoci lasciato uno dei capolavori assoluti della letteratura di ogni tempo, Jane Eyre, oltre a Villette e a Shirley. Dei primi due abbiamo dato lettura e lasciamo il link in descrizione. Alla dipartita di Charlotte, il padre reverendo contattò l'amica e collega di sua figlia, Elizabeth Gaskell, autrice molto amata dalla nostra scuola, affinché ne scrivesse la biografia. Il vecchio padre, unico sopravvissuto alla morte prematura di moglie, cinque figlie e un figlio, forse in questo modo pensò di sgravarsi la coscienza di un bel peso, quello di avere proibito per tanti anni il matrimonio a Charlotte, ultima sopravvissuta, per tenerla in casa al suo servizio. Sta di fatto che Elizabeth, la compassionevole ed empatica autrice di Ruth, moglie e figlie, Lois la strega e Nord e Sud, tutti presenti sul nostro canale, di cui lasciamo il link in descrizione, partì per compiere ricerche nei luoghi in cui Charlotte era vissuta e cercare materiale, soprattutto lettere ma anche testimonianze, che l'aiutassero a delinearne il carattere. Essendo anche Elizabeth Gaskell figlia di un pastore ed essendo stata adottata da appena 4 anni da una zia, fu sicuramente in risonanza con l'essere orfane di mamma delle sorelle Bronte. La vita di Charlotte non è un romanzo, ma è come se lo fosse. La storia delle tre sorelle è talmente incredibile che spesso risulta difficile ritenerla possibile. Di Charlotte e delle sue sorelle abbiamo parlato ampiamente in altre occasioni e per approfondimenti lasceremo in descrizione tutti i link. Questa biografia ci dà in più la nitidezza della dettagliata descrizione storica così tipica di Elizabeth Gaskell. Ne emerge una Charlotte non solo scrittrice, ma anche e soprattutto fanciulla, costretta a far da madre alle sorelle e donna dalla vita travagliata, ma piena di fuoco e di passione. Quando nel 1837 il poeta Robert Southey, al quale Charlotte aveva inviato le sue poesie in visione, l'aveva ammonita che la letteratura non può essere l'occupazione della vita di una donna, non deve esserlo, lei gli rispose che avrebbe prontamente smesso di scrivere, ma lo fece usando le parole come laser, dietro un'apparente perfetta docilità, laser con cui scolpì la caricatura dell'obbedienza femminile, come ben osservò la futura romanziera George Eliot, la quale esclamò: «Che passione, che fuoco in lei!» È stato detto che la biografia scritta da Elizabeth Gaskell riporta una Charlotte poco battagliera. Una donna modesta, schiava del proprio dovere, che soffre all'ombra delle lapidi per la prematura morte dei cinque fratelli. Così sostiene Lyndall Gordon, autrice di Charlotte Bronte, Una vita appassionata, seconda biografia di Charlotte, edita in Italia da Fazzi Editore nel 1994, ossia quasi un secolo e mezzo dopo quella di Elizabeth Gaskell. Noi non condividiamo questo commento. A noi la lettura ha restituito una donna forte, determinata, volitiva ed energica, della stessa energia che anima Jane Eyre. Difficilmente la grande Elizabeth Gaskell, così attenta alla perfezione dei dettagli storici e psicologici, avrebbe potuto offrirci una biografia carente di una qualche componente. Questo naturalmente senza voler negare ad altre biografe più recenti i loro meriti nell'aver affrontato un gigante come Charlotte. Noi crediamo che la grandezza di questa biografia risieda nel fatto che è stata scritta da Elizabeth Gaskell, autrice ed essere umano altrettanto grande di Charlotte Bronte. La Scuola delle Donne è lieta di proporvi La vita di Charlotte Bronte, di Elizabeth Gaskell, Castelvecchi Editore, traduzione di Simone Buffa di Castelferro. Da Devana, buon ascolto.